cassa lì e mi porta il manuale. Ah, l'hai preso fuori? Sono portante a tutti! E che è questo? Poi il bombolino popoletto! Buonasera, buonasera! E buonasera, amici, sono indaffarato in casa. Metto la portante a tutti! Fai pure, fai pure, problemi non hai. Dai, continuate che sto scherzando. Adesso devo tutto memorizzarmi, tutti i nuovi segnali, che con questo non sono abituato. Devo smantellare un po' di roba per farci lottare, che cacca, un armadio di lanterna in mano. Chi c'era poi l'altro? Che era Luca. Cos'è questo rumore? Cos'è questo rumore? Gianni, sei scendo una cacchiata. Chi era lui con questo? Gianni. Gianni? No, non era Gianni, forse era Antonio. A noi da Simo Assimi. Quindi che è Gianni, cosa ho io? Gianni, stai scendo malissimo. Che c'è Gianni, stai sempre tu che ne, ma chi non tratta di una radio e boom? Oh, Robè. Chi mi fa? Ma cos'hai toccato? Niente, perché? Perché sei un po' più sciatto. Vabbè, può essere che abbia toccato la potenza. Aspetta, che poco fa ho sollevato un pochettino. Va, guarda adesso. No, lascia la 35 watt, se no vai negativo. Ah, 35, sono molto di meno di 35. Aspetta, quanti ne sta segnando qua? È una quindicina, so. No. Sono una quindicina, fottidini. Ma te ti devo attenuare, Cla, di 30 dB, sennò mi sfaccio lo smitter, cioè fa questo qua, cioè, come si chiama, arrivi oltre di 960, ma abbondantemente. Se sono 4 watt, cazzo, oltre 960, 4 watt sto usando. Cla, questo strumento sta segnando più di 940 e si è attenuato di 30 dB tu. No, no, va bene, assolutamente, sono con 4 watt, roba, guarda. Perché mi proprio poco fa ho installato l'amplificatore su questa radio, guarda, così è, guardate anche voi, guarda, così è 4 watt, stai attento, 4 watt, e così è attaccato, guarda, e così è attaccato. Allora sei 9,35 è normale, attenuato di 30 dB, per cui c'è più di 9,60. Sì, ma si vede la differenza, gli altri la vedono la differenza, così è attaccato, 1, 2, 3, e così è staccato. Già, stai uscendo male, cazzo, stai uscendo male. Eia, stai uscendo male. Non ti capisco, sì, cos'è? Togli l'eco. È tutto sciatto, ma io non lo capisco lui. Sì, io anche da poco fa sto scendo male. Tutto un fruscio, Gianni. Ti ho detto che quel Galaxy c'ha problemi, Gianni, non è il microfono. Non ho capito, cosa ha detto lui? Che la radio i problemi non è, anche se mette l'altro microfono esce meglio. Però stai uscendo sempre, anche senza eco, sempre con un fischio già. Controlla che cosa. Allora metti l'altro microfono, poi gattino chiuso, cosa vuoi ti dica? Se non ti capisco. Cazzo, boh, allucinante, ragazzi. Robè, no, non deve segnare così quella radio. No, c'è qualcosa che non mi convince, assolutamente. Togli 30 dB di attenuazione, gli altri come ti arrivano? Mettilo normale. Io sono con 4 watt. Adesso sei 9,50 tu. Con 4 watt. Ma a me mi pare troppo generoso, capita, pure amari. No, no, c'è qualcosa che non va. Sicuramente, c'è qualcosa che non va. Fai me a l'educato qualche cosa. Non devi usare attenuata quella radio. Ti deve dare il mio segnale, normale. Capito? Io sono con 4 watt. E col 440 quanto ti arrivo? Commuta 440 a vedere così con 4 watt a vedere quanto ti arrivo. E ti devo arrivare uguale così con 9,40. Sei 9,60 tu adesso, là. No, commuta col 4,40 e mi dici quanto ti arrivo col 4,40, perché a volte mi dici perché sei così basso, così con 4 watt. Aspetta un attimo. E poi vedi la differenza. Ho detto, cazzo, controllala bene con la radio, subito a controllare uscì. Ho detto, controlla la ricezione, a me della trasmissione, non è forte niente. Quella radio ha un problema solo, il difetto del 9,40 è un problema. ricezione, ok? Di ricezione, non di trasmissione. Ha un problema di da sempre, l'ha avuto, problema di ricezione. Che o è troppo alta la ricezione o è troppo bassa. Quanto ti arriva col 4,40 così? Allora, con questo sei 9,60, con 4,40 9,55. Così, senza 30 dB di attenuazione. Eia. Allora è giusto, cazzo, vabbè, boh, minchia. Però c'è una bella escursione, cioè rispetto al 4,40 è molto più grande l'escursione. E poi c'ha il, come si chiama, molta più ricezione. Ascolto, ho fatto la prova poco fa, in altre bande, ma arrivate 10-0, un bel più silenzioso. Vabbè, stai parlando di una radio diversa, te l'ho già spiegato. Quella radio, io ne ho avuto tre di quelle, di cui una me l'ha venduta Luca, che è qua presente, la nuova, nuova, nuova, che è quella che volevo dare a te, che poi non ci siamo capiti. Io nemmeno lo usavo perché non spinge, capito? Non è la modulazione che piace a me, capito? Però come ricevitore non ce l'è per nessuno, te l'ho già detto, no? Cioè io non sento il QRM, sembra zero, cioè rispetto all'altro tutto è a zero il QRM, è proprio silenziosissimo, mi piace per quello. E poi un'altra cosa, il processore, vabbè, poi me lo dovrei spiegare, me deve dare le istruzioni, è regolabile qua il processore, così è classico. Esatto, per quello che te l'ho detto, è regolabile il processore. Tu stavi parlando assieme a lui, io non capivo. La prima cosa che ti ho detto, inserisci il processore a quanto ce l'hai. E l'abbiamo regolato, sia il processore che il compressore. Devono andare in tandem, capito, per avere la modulazione perfetta. Perché quando tu fai le regolazioni in AM, le stesse regolazioni che tu fai in AM vanno bene anche per l'SSB, non c'è da toccare niente. Vediamo Gianni se ha cambiato microfono. C'è il rumore di alternata e radio non ne hai, non è il microfono già. Te l'ho già detto l'altro giorno, quella radio ha problemi, perché è impossibile, mentre parli se ne va tutta per i cazzi suoi. Claudio, vabbè. Quanto lo stai vendendo il nero della Intec, tu, 3104? Vendendo? Ma quello l'ho comprato? No, non sto vendendo niente. L'ha visto lui, cacca, troppo bella questa radio, mi piace troppo. Ma la vedi, ha detto, no, guarda, io non la vendo. Se chiedo a qualcuno che c'era un amico, gli ho detto. No, non la vendo, perché c'era... No, l'ho comprata per averla. Anzi, ti ho detto, ne sto cercando anche un'altra. Ascolta, l'operazione l'hai chiusa come hai detto a me, o gli hai dato quella là? No, l'ho dato di nero, se buco. Vabbè, quella là lasciala che poi ci mettiamo d'accordo, vediamo un po'. Che devo vedere alcune cose, se va in porto ritorna qua quella, già hai capito quale, là. Se no ti prendi il 700. Posso anche, sì, non c'è problema. No, ma sono soddisfatto qua di questa. A parte c'ha una marea di funzioni e tutto, me lo devo tutto studiare. Quante memorie c'ha questo? Più di 50? È uguale al 440, sempre 100 memorie. Ascolta, il selettore, quella verde piccolina che c'è a destra, il selector, come cazzo si chiama, quello lì funziona? È verde, sì? Sì, funziona l'orologio, ho fatto tutto. Ci sono due frequenze, c'è scritto VB e VA. Ci ha memorizzato una in FM e l'altra in AM, no? Vabbè, quella che sto usando adesso sta memorizzando, e poi anche l'orologio ho provato, funziona tutto. Ci sono dei tasti che non conosco, che devo cercare di capire. Non c'ha però la scheda fonemi, forse in questo tipo di radio non c'è. No, non è la scheda fonemi quello, 440 solo c'è la scheda fonemi. E basta. Sì, vabbè, quello lì ti segna il WFA, WFOB e te lo segna nel selettore esterno, capito? Per vedere appunto quale frequenza c'hai sotto e quale frequenza c'hai sopra. No, è facilissimo da usare. Tu una volta che hai fatto le regolazioni dei cosi, Mickey Gay, processore, compressore, eccetera, e la potenza te la regoli e non c'è nessun problema, capisci? Ho detto che ho una ragione. È grande quanto il DAC, io ce l'avevo sopra il DAC, ed è la stessa misura, è appena più basso, ma come grandezza è come il DAC, è un bel ragione. Ma poi c'ha sopra un coperchietto, una bocca di regolazioni, sopra il coperchio superiore, lì c'è uno sportellino che si apre, una bocca di roba, infatti c'è il Vox, regolazione AM, ci sono una marea di slide da regolare, lì c'è, io l'ho lasciato sempre così, mi hanno detto tenerlo così, perché in FM lui lo provava. No, toccarlo quello, quelli sono i selettori del Vox, capito, per far andare col Vox, no, non c'entra niente, non toccare quelli. Lascia stare tutto come te, vai benissimo, ti ripeto, a me la modulazione bene, chiara, perfetta, però non spinge come il 440, quindi va bene così, però in banda laterale fa molto bene, in FM fa molto bene, capito? Vabbè. KK, oh Luca! Si rimane al equalizzatore, non intendi pompendi sta radio. Sì, che metto la Dunis un attimino, aspetta che mi dite cosa cambia. No, lui, toglietelo dalla testa, non dire a me, perché più di me nessuno ha fatto prove col 940, no, anche se le metti le equalizzazioni, io l'ho provato con l'MC85, col parametrico, no, non ha niente a che fare con la modulazione del 140, del 440 e così via. È una modulazione completamente diversa, è bella lo stesso, ma è completamente diversa. Guarda adesso, questo è la Dunis. Toni bassi c'hai il buco. Vabbè, qua posso regolare come voglio. No, ma più bassa la radio questa. Più o meno come quella là, però c'ha più toni bassi che acuti. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Fallo con un Luca che è più lontano, vai Luca. Non sta cambiando niente da me. Ma con quella che stai ascoltando, Luca, tu? Come sta ascoltando la radio? No, con l'altoparlante esterno o con l'altoparlantino del baracchino, perché le prove si fanno con l'altoparlante un po' serio, se c'è l'altoparlantino della radio non riesce a valutare bene. Beh, se cambi il microfono, anche se è la colonia della radio, si capisce. Scusa. Sì, che si capisce, però quando mi parli di tuni, toni bassi, toni alti, l'altoparlantino non è che ti dà la risposta come una cosa. Per dire, quando c'è la colonia esterna, i bassi li senti un po' meglio, quelli acuti riescono a sentirli anche meglio. Come si trova? Non c'è spinta, mi pare. Non so come spiegarmi. Non c'è spinta, non c'è niente, roba, capito? Aspetta, mi sto. È così alla fine, mi Esatto, e quella a me non piace in M, per il resto è una vera eccezionale, però non c'ha spinta, non... è come che stai usando un microfono normale. Aspetta un attimo, vabbè, vediamo Gianni si è risolto, già Gianni, no, Gianni lo sento un bel male, capito vabbè? Non c'ha spinta, tu puoi mettere qualsiasi microfono a quella radio, una volta che è regolata per la M, boh, così è, non c'è niente da fare. Adesso ho fatto un altro lavoretto, più forte. Adesso sì. Se nel caso regolare il microfono ho dato più compressione al microfono. A quanto l'avevamo messo? Qua il microfono è al minimo, sarà a 2,5 in questo. No, io sto parlando, c'è la Dunis adesso, tieni presente. Però qua posso salire un bel di intensità di microfono. No, non salire di più, se non vai a strappare. No, ma il compressore del processore, a quanto l'abbiamo messo? Da 1 a 10, tutte e due, a quanto sono? 7. E 7 cosa? 7 processore e 7 compressore, tutti e due uguali sono. Esatto, va bene. E invece la Dunis a quanto ce l'hai? La Dunis è a 2. Ma così dovrebbe andare bene, no Luca? Sì, però fallo spingere di più a vedere. Mettilo a 3, vabbè. Guarda adesso ho sollevato un pochettino, com'è? Cazzo, va bene adesso. Sta andando un po' in distorsione, mi sembra, capo. Appena appena, non deve gridare, sennò è lì il problema, capito? Quella radio, più o meno io mi ricordo infatti che era 5 a 6 processore compressore o a 6 e 6, adesso mi ricordo l'MC60 che non era regolabile, quindi le davo di Mickey Gain, ne davo 3-4 e andava bene, ma andava bene nel senso che era pulita, a posto, però non potevo andare più di tanto perché altrimenti strappava, capito? Sì, allora qua bisogna pensarsi, là dovrò regolare tutto, fare tutte le regolazioni con questo microfono. Ma io sono un po' più forte di prima? Sì, ma non devi gridare, siamo strappi. Sì, allora facciamo così, dai, sono abbastanza lontano, sarò 50 cm, 60 cm dal microfono. Va bene, lasciala così allora, lasciala così. Non sollevare il compressore e il processore, sennò ti sfasa poi la banda laterale. E banda laterale come stava uscendo prima? Qua. Benissimo, alla grande. Sì, prima l'avevo attaccato, ho detto, ma perché si sente così male il buio, infatti tra è una FM. Ma infatti mi ha detto sta uscendo male, buio, ho detto come sta uscendo male, sono col baracchino. E poi ho detto, ma vedi che, ma neanche lui la sapeva usare questa radio, infatti gli ho detto, è la regola della potenza dal Mickey Gain. Gli ho detto, mica quello è il Mickey Gain, non è la potenza. E vabbè, c'è scritto il car, quindi. Quello c'ha il car power, c'ha il compressore, c'ha il processore, c'ha due cose separate. No, va bene come radio, e poi quel prezzo hai fatto un affare, dai, già va bene. Avanti tu. Sì, ma poi anche se ti canete, io ho le foto anche se tecnicamente è nuova. No, è nuova, è in buonissime condizioni, non è graffiata. Lui magari non era molto pulito, infatti era tutta disinfettata con l'alcol, asciugava il dutto per sicurezza. Fumatore mi sembrava anche. Un bel pure, adesso il microfono lo devo mettere a bagno perché è tutto unto, mamma mia, il microfono che mi ha dato, vabbè che non lo uso quel microfono, però l'ho tutto passata bene con l'alcol in modo da disinfettarmi, dai. Come non passare l'alcol sopra la radio? Le cose, nei pomelli, ho pulito tutti i pomelli. E ho capito, ma ti ha detto che ti toglie le cromature l'alcol? No, vabbè, era nel cottone, è fatto piano piano, non è che ha fatto niente di posto, è già pulita, già va bene. Infatti poi non sono neanche molto consumati, non è, si vede che non è stata molto usata questa radio. Se devi consumare, mica è un 440 o un 140, anche i consumitasti. Quella c'è poco da regolare, una volta che è regolata si lascia così, capito? Ma Gianni che fine ha fatto? Gianni è offeso adesso. Comunque lui ha vinto 2-0 e 2-0 l'Inter. E 4-0 ha vinto la Juve. Il Cagliari stava pareggiando, e ci avete cosa ha fatto? La Juve è strepitosa ieri a Parma, non gli ha fatto toccare palla. La Juve c'è, già glieli prende quei 3 punti al Milan, vedrai che glieli prende. La Juve gioca di nuovo martedì, lo so. Sì, già lo so. Sì. E poi c'è, aspetta con chi è il Milan, la prossima partita, se c'è una partita delicata al Milan, c'ha il... Magari, esatto, no? Milan-Lazio c'è, e poi c'è Fiorentina-Juventus. Fiorentina-Juventus, ma... Esci che mi guardo questo video che mi ha mandato della radio. Tu non ce l'hai qua, portata in mano le istruzioni tra del 9:40, lui ce l'ha sia in italiano che in inglese, metto tre porto il 28, che sono dimenticato, se ce l'hai tu. Cosa hai detto? Non ho capito, ma stavo ascoltando un audio che mi hanno mandato, cosa hai detto? Tu ce l'hai le istruzioni del 9:40 che sono dimenticate, me le porta il 28, mi ha detto. No, io ho le istruzioni del 9:40, le ho date quando ho venduto la radio, ho dato tutto in originale. Ok, no, poi c'è l'altro pallantino, almeno sono di linea, quello mi piace perché è lo stesso grandezza e va bene, glielo metto vicino, se devo trovare la posizione migliore fa cavare un po' di imbarazzi e fammi sapere quell'altro altopallantino dello scambio qua. Dobbiamo vedercelo, oggi è un po' incasinato, infatti mi sono addormentato un po' pranzo, io non ho dormito un cazzo, capito? Poi mia figlia è arrivata che erano le 4:30. Vabbè, dai, comunque hai fatto, già va bene, lasciala così che già va bene. Sì, ok, vai Luca. Ma infatti, cosa sai, il ricorrente, il problema, chi è, il compressore, quando intanto è una radio che hai preso per usarla da altre parti o come ricevitore, ancora non l'ho capito, ma a me mi serve come ricevitore, perché sono di quelli fanatici di ascoltare segnali deboli, cose così, ti posso dire almeno la prima chitto, non è che mi sia messo a fare, ho fatto il confronto con 44, si fa 10-0, molto, ma molto più silenzioso, io non ne sento quel REM, è proprio zero. Sì, poi è certo, beh, tutta un'altra pianeta, giustamente, con i filtri che ha, e beh, poi anche 440, anche 140 sono rumorosi, non possiamo, infatti come dice Claudio, sono baracchini a sintonia continua, e va ragione. Ti ho detto che nessuno più di me può aver queste discussioni così, perché io le ho provate, so quello che dico. 4:30, 4:40, 140 e 80 sono baracchini a sintonia continua, e boh, capito? Io parlo di radio buone già quando parlo di 756, 706 MK2, cosa ti posso dire? Allora lì stiamo già parlando di selettività, di cose eccezionali. 9:40 già ha fatto la sua storia, però già è una radio superiore sicuramente a queste della Kevo, de piccole. Se tu provi il 930, Robè, prima di quello, è ancora meglio il 930 del 940, capito? Vai tranquillo. Poi tante altre che io ho provato, non c'è storia. non c'è storia. Già il 430 è molto più selettivo del 440, ma molto più selettivo, sia come ricevitore che come trasmettitore. E nessuno può dire il contrario, perché vuol dire che non la capisce un cazzo. Ma io che l'ho provate tutte e due assieme, una vicino all'altra, con antenne direttive, con dipolo, con verticali, c'è una differenza allucinante. Il 440 è molto più rumoroso rispetto al 430. Molto più selettivo il 430, ma molto, molto più selettivo. Quando è uscito, io penso, ti compri una macchina con i soldi di un 940. Guarda, io l'ho comprato nuovo, ormai un notaio, ho comprato il 940 e il TL922 e ti faccio vedere le foto scattate nella mia scrivania quando ero, avevo l'appartamento al nono piano con Ilaria piccolina seduta a fianco a me, capito? Linea completa del 940, linea completa con TL922 che avevo pagato 4.500.000 lire il TL922 e il 940 l'avevo pagato 4.800.000 lire. Se tu comprare una macchina non utilitaria con quei soldi? Non sono balle, perché io c'ho tutto scritto, è tutto fotografato, è tutto da far vedere, capito? Però vabbè, a quei tempi i soldi c'erano parecchi e tanti, tanti tanti. Io lavoravo fuori, ero sempre trasfettista e portavo a casa un pacco di soldi, quindi me lo potevo permettere. Adesso invece non si può più fare, a parte il fatto che non conviene più, ma comunque adesso o ce li hai o non ce li hai soldi. Prima ne avevi parecchi, io ne ho avuto tanti, e del radio ne ho comprato tantissimo, soprattutto a Mario Notari ne ho comprato tante, tante, tante. Avanti lui. Vabbè, prima facevi HF, ma no, sei comparendo in vintage. Infatti, HF non me ne ha tutti venuti. Ho finito io di fare quello che facevo prima, non mi interessa. Baracchini, boh, io gioco GB, e GB voglio morire. Ben vengano i radioamatori con la loro voglia di fare, per carità di Dio, assolutamente, sono da ammirare per quello che fanno, ma a me non mi interessa. Ma gli ho venduto tutto, e mai più investirò in HF, in balle e poi va. Baracchini, mi compro baracchini e uso il baracchini intanto, vado già Giffi, va bene lo stesso. Ho bianco il telefono un attimo. Ehi, ehi, ma è Gianni, attento, l'ho più rotto. Certo, vi ho offeso. Ehi, non l'ho offeso, mi è incazzato, mi l'ho offeso. Ma io gli ho detto l'altro giorno, perché quando sta parlando col Galaxy si esce bene e poi se ne va tutto per i cazzi suoi con la radio. Sicuramente c'è qualche problema. Lui mi ha detto che era il microfono, ha detto vabbè, c'è il microfono, meglio così, però non è il microfono. Ma se c'è un ballo, scusa, si invoca ogni dubbio. Se mi ha detto che l'aveva cambiato, anche stamattina mi ha detto che l'aveva cambiato il microfono, che andava bene, non lo so. Questa sempre bene, sta andando qua. Alla grande. Ti ho detto poco fa, ci hai notato la differenza da 4 watt a, boh, non lo so quanto dà, perché non c'ho strumento. Quanto è così il segnale? Se passavi da 9.20 a 9.30, con questo. Col 7.06? Sì, già va bene. Già va bene, già va bene. Quindi così sono 9 più 20. Esatto. Però non so quanto sia attendibile questo, eh. Boh, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. No, io quando parla Roberto devo usare praticamente poca potenza, perché dall'altro giorno dice che lo mando in saturazione. Oh, là. Sì. Ma questo in laterale, in banda laterale tira più del 5440? No, sempre uguali sono, non è versione da 200 watt quello, sempre 100 watt. Ma no, pensavo che tirasse di più, 120. No, no, dipende poi. Dipende se l'hanno toccato, se l'hanno tirato, ma il 940 non si può fare nessuna modifica, non è che puoi metterti a tirare, a fare. No, non mi interessa. E in FM quanto ne dà? Uguale, 100 watt in FM, 100 watt in SSB e 40 watt in AM. Ma mentre nel 440 ne tira di più in AM. No, sono tutti uguali, quelli che tirano sono stati toccati. Allora, io c'ho un 140, mi hanno portato un 140, mi qua c'è Luca, da regolare appena appena la radio, nel senso dare appena appena con lo VR13, VR17, dare appena appena di Mickey Game in più. Ok, senza toccare altro, solo la radio, e l'ho fatta. Quando l'ho provata, a differenza della mia, che la mia è toccata di fatto, quella dava 35 watt in AM, 80 watt in FM e 80 watt in SSB. Mai stata toccata, originale. Ok. E Gianni, penso se. Gianni, ci sei? Tutte così sono. Se tu ti guardi il manuale del 440, se ce l'hai, o di qualsiasi altra radio Kenwood, c'è scritto in AM è quella la potenza, non cambia. Quelle che danno più watt è perché sono state toccate, altrimenti originali in AM sono circa 40 watt. Anche 950 è la stessa cosa, ne tira di più. No, no, tutti così sono, tutti così, tutti così. Roberto, ti chiede il radio di potenza, a me mi pare. No, guarda, ti posso dire, quando è venuto il tipo, ma non è la lineare, no, a me non me la fottino da lineare, proprio le potenza a me. Ha detto che conta l'antenna, l'ho sempre detto io. Ora la direttiva, Robè, se vuoi fare ascolto serio, no? Un verticale. Sì, già facciamo tutto, piano piano, non ti preoccupare. Sta parlando con quelli, detto, ma ce n'è gente a Olbia, dice al pieno di CB a Olbia, la zona di Olbia. Poi c'è questo di Sant'Antonio, dice che parla con Sassari e Flav, l'hai sentito tu? Sì, coso, Alessandro, Sant'Antonio di Gallura, certo, certo. Non mi è mai capitato a me, vabbè, non è che io entro spesso. Oggi ho sentito quello Claudio di Porto Torres, mai sentito Porto Torres così forte, 9 più 15 arrivava a me, una bomba. E io arrivavo 9, più forte di tutti gli altri. Allora, Claudio a me mi arriva 9 più 20, ti ho detto dove abita, io gli arrivo 9 più 20 quasi. Claudio abita davanti a te, tu vai nel tuo terrazzo e vedi, io perlomeno vado nel mio terrazzo e vedo il faro di Porto Torres, ok? Quello che segnala praticamente l'ingresso al porto di Porto Torres, lui abita lì. Infatti me l'ha detto, io sicuramente sono molto aperto per quel pezzettino, perché segnali così forti io non li ho mai ricevuti da Porto Torres. Se cazzo abita davanti a te, lui ci vede a noi, poi tu non lo so se vedi a lui, ma io già lo vedo dal terrazzo, sì. Cazzo se lo vedo, se è il punto più alto di Porto Torres, mi arriva 9 più 20 a me quasi. Tonino, per dire, che io pensavo Tonino arrivasse a bomba a Porto Torres, gli arrivava a 7, quando era attaccato arrivava a 8, 8 e mezzo, e io pensavo arrivasse molto più forte di me Tonino. No, Tonino è più coperto verso di lui, è più coperto. Io l'unico che arriva proprio diretto sono io, perché vedo l'eliche, mi hai capito? Vedo il porto di Porto Torres e quindi sono davanti a lui. Ia. Ma poi lui è molto aperto, dice tutta la zona Carta del Sardo, l'Isola Rossa, lui fa che è una bomba. Cazzo, ma tu lo sai cosa vuol dire il fare così chiamato di Porto Torres? Quando quello si illumina, la nave deve fare riferimento a quello per vedere l'ingresso del porto di Porto Torres. Cazzo, lui abita lì, è chiaro che vede tutto. No, no, già lo so, lo conosco bene il pezzo. E ma dico, c'ha una bella apertura lui verso tutto le cose, tutto il golfo. Arriva, dice un po' a sentire, un po' debole, però c'è tutta la zona, c'è la Santa Teresa, lui arriva a bomba. Io lo dico, se la vede, se vede tutta la costa, se vede Castel Sardo, è normale, no? Ia. Ok, vediamo Luca, riprendi tu e poi fa girare se c'è Gianni, se è rientrato. Gianni, a Bisese. Gianni, smontende la radio. E Luca, sei impressionante, i picchi di modulazione che c'è, tu sono spettacolari. Luca Flipper, arrivano più di 9,20 i picchi. No, qua non li vedo molto, però già arriva bene Luca, è sul più del 9 più 20. Ma poi questo strumento è bello perché è molto sensibile, come parli già adesso, come sto parlando io, ho messo in posizione di coso, di modulazione, e si vede proprio muovendosi, e poi l'escursione è molto, molto più marchiata rispetto a quello dello strumento del 440. Sì, ma in che posizione lo stai tenendo? Mettilo in watt. Hai visto che c'ha 4 scale quello strumento? In che posizione lo stai tenendo? Power, potenza, ma si muove bella la lancetta, molto sensibile. Beh certo, stai spingendo col compressore, col processore assieme, io lo vedo che spingi. Comunque in banda laterale la lascio così, non tocco niente. No, non devi toccare niente, le regolazioni sono quelle. Quando tu fai la regolazione AM, FM, automaticamente ti porta, ti centra praticamente anche l'SSB, non devi toccare niente, va benissimo. Ok, dai. Il segnale è sempre il solito mio. Sì, c'è sopra il DB. Tu adesso la stai utilizzando qua? Il Midland, il 574. No, pensavo fosse con una tua radio, figurati, stavo dicendo, vabbè, non sono abituato adesso a questo altoparlante, perché tu hai sempre ascoltato con l'altoparlante esterno, ma con questa radio qua e l'altoparlante suo, bellissima, pulita pulita la radio, chiara chiara. No, c'è bene questo, escono tutte bene, tutte, va bene, questa sono con 4 watt, 5 watt, dai. 5 watt modulati 6, 7, non di più, basta, non c'ho niente attaccato. Vai Lu, Lugariello. Luca non c'è più, ci due. Non lo so. L'accordatore dove ce l'ha questo qua? C'è scritto, magari c'è scritto a T. C'è scritto a T-tune. C'è l'indicatore, c'è la lucetta, però sto cercando a capire dove. A T. Vedi se si vede. TV7 stava 2008 passi questa cosa. Ah sì, eccolo qua sotto. Sotto c'è scritto attitudine. Quello, quando tu schiacci si accende la luce rossa, quando si spegne accordato. Meglio di colore 440 come accordatore più veloce. E 440 accordatore, sei un cucigato, ragazzi. No, per farti un meglio rumore al 440 non si muove. No, quello è velocissimo. Provami. Vabbè, quando c'è 5 minuti ci mettiamo insieme e mi fai vedere qualche cosa di questa. È una fesseria, roba. Usare una fesseria. È uguale come tutte le altre. A me l'unica che mi ha fatto uscire un po' fuori di testa era il coso, quello dello Yaish, quello grande che poi ho venduto. Cazzo, quella era una cosa allucinante, ne avevo poco da sette tastini. Proprio mi sedevo ore e ore a controllare, fare, vedere, imparare, anche sbagliando, poi smettevo com'era, ma quella è facile, che molte sono facili. Sì, più o meno è come 440, c'ha molti più tasti, molti tasti doppi, eccetera. Adesso devo cercare di memorizzare i canali, volevo vedere come si fa. Domani mattina oggi ci vediamo, eh. Al limite, vabbè, mi faccio accompagnare da Marcello, dal meccanico, intanto devo lasciare la macchina domani, Roberto. Ah, domani c'è l'appuntamento? Domani mattina alle 8:30. Ho fatto un bel prezzo, sono contentissimo, la grande. Infatti ha detto, la manodopera, vabbè, tutto compreso. Infatti ha detto, ah, e poi la manodopera, quello, te la sto portando subito. Già lo grido. Guarda, non lo permetto di scatto per cambiare il cuscinetto, la cosa, ci vuole un po' di tempo, non è un lavoretto da niente. Ok, Luca, ci sei. Ma detto ci vuole la pressa, mi ha detto Danilo, tuo fratello, che voi non ce l'avete, ci vuole la pressa per toglierlo. Sì, loro ce l'hanno la pressa, però fai danno. Toglierlo e rimetterlo soprattutto. Esatto, beh, se ne rubo più lo devi rimettere. Via. Vediamo se Gianni ha sistemato. Gianni, ci sei? C'è qualcuno su 10 che vuole entrare? Che stava bene il cane, là. Cosa c'è Gianni? Una diarrea, stava piangendo, l'ho portato qui la diarrea. Ma di nuovo, ma sempre il pollo le stai dando? No, non ne ho dato il pollo. Ma già è un periodo del cazzo con il cane, anche il mio non è, gli ho dato il Previcos l'altro giorno, si è alzato, era tutto di traverso, tutto gobbo, sembrava che avevano preso la colpi alla schiena, capito? Vabbè dai, ascolta, e la radio l'hai messa a posto? No, la radio la lascio ferma, la c'è arrivata. Già, lasciala ferma e falla controllare, perché sicuramente c'ha qualche problema. L'ha pigliato d'ora romano, perché non è il microfono? Perché esci bene, quando stai parlando vai benissimo alla grande e poi inizi a difettare. Forse come scalda, boh. E anch'io sto pensando lo stesso, come scalda perché ero tutta la sera che parlavo e nessuno mi ha detto nulla. Poi da fatto mi sento. Sì, già lo sai che io sono molto. Fa figurati se ti prendo in giro, se ti dico. Così va benissimo, ti ho detto niente. Poi iniziate a difettare, innesca, tira fuori il rumore di alternata e va per i cacchi suoi, come fa, non si capiva niente. C'era qualche cosa con il suono, qualche dio, qualche cosa, vabbè, ma non la forzare, ma rifarla vedere. K, vai Robè. batteria. Luca no, non c'è Luca, lo stavo chiamando ma non è entrato. Luca ci sei? Adesso qua che sono al telefono, dimmi. No, no, ti ho solo rilanciato poco fa, non ti ho sentito, adesso ho risentito Gianni. Cosa volevo dire? Basta, cosa avete dica? Questi animali è così, sono peggio dei cristiani, si ammalano molto peggio più in fretta dei cristiani ed è anche più difficile capire cosa c'hanno perché non riesce a non parlano. Devo andare al veterinario, devo fare, ci vuole esperienza, infatti, se no è un problemino. Ok, riprendi Gianni, poi fai girare per giro cosa per Claudio. Io adesso la sto facendo scaldare la radio, poi la riattacco, voglio vedere. Semmai la devi fare a freddo perché te l'ha fatta a caldo. E appunto facendola a caldo dovrebbe fare il difetto, no? Per logica, se me l'ha fatta a caldo la devo riprovare. Ma a caldo usandola, non a caldo, capito? A caldo usandola, andando in trasmissione. O no, tra? Cava cava. Sì, perché c'è proprio una porcheria, fischi, l'eco, tutto un abolotto. Arrivo subito, un secondo, che sto andando da mia moglie, un minuto. Fai Claudio, chi è entrato? Avanti Roberto, che prendi tutto lì, riesci a entrare qualcuno di nuovo? Boh, non so se era Luca Del Monte. Boh, Luca tu sei. È sembrata la risata. O tu Luca eri. Luca Pippa, tu eri la risatina. Ma quando? Poco fa. Il monte è a passeggio, mi sente a lui. Ho sentito una risatina, mi sembrava la risata di Luca, boh. No, io sono con la ragazza Luca, è al centro, ma adesso. Ma come c'era oggi? Per fare sedi, mercantino? No, al centro perché andavo. Per fare sedi c'era mercantino stamattina, sono andato per accendere il baracchino per mettermi lì, invece c'era gente che se l'ha andato su, invece c'è il prodotto filato, non si capisce per me per passare. E niente, invece non era niente. Ho subito solo a Marino che stava mettendo un'antenna. Sicuramente penso alla veloce, qualcuno della veloce, che sta portando la pista di macchina, non ci trova passo passo di là. Stamattina c'ero io, c'era anche quel Claudio di Porto Torres Nevada e Antonio Bombolo, ma in 10 minuti, un quarto d'ora sono andato perché poi dovevo uscire, dovevo fare roba e basta. E, diciamo, certi momenti c'è un po' di gente, era brutto, altri momenti non ve ne nessuno, dipende dalle coincidenze. Ok, dove sei tu adesso? Da tua se o in macchina? No, a casa. Cosa ti stavo dicendo? C'ero, però dopo, e quando sono salito su verso la Claudiosi, lì non c'era nessuno, poi sono sceso e ho sentito e mi ho preso dal monte, ero già arrivato al monte vicino a casa quando ho sentito voi. E io? Quanti fatti d'acqua la radio? Cosa? Quanti fatti d'acqua la radio che diciamo? Questa qua? Pochi. Nemmeno questo qui da 4 watt. Mi sono passato con l'altra e ho visto che sei molto più basso. Con cosa sei qua? Adesso sono più alto sicuramente. Cosa Robert? Con che radio sei? Con 140. Sono Claudio, come mi ascolti? 1, 2, 3, 4, 5, è aumentato il segnale? Sì, sì, è aumentato un pochino. Devo fare, attaccato anche il mio, per vedere a Luca. Non dissocio per niente, perfetto. Poi io vado 4 volte l'ingresso. Cava gara, adesso riprovo il bar, se devo vedere se lo dico. Ieri notte sono stato sino a tardi, smontando il microfono, pulendolo, facendo, è un bel forte, cacchio, rispetto a già servito adesso la differenza. E questo tipo c'è anche un amplificatore, se interessa qualcuno, metto 400 watt in AM e 600-700 in banda laterale mia. Perché non mi hai chiamato? Che amplificatore? Non me lo ricordo che cos'è, a transistor, però mi forse Luca lo sa. Luca, che cos'è? È a transistor, lo voglio io allora, per attaccare i baracchini, lo voglio, capito, che non sia TF, perché posso attaccare l'RMI per i baracchini, cioè, capito? no, era transistor, quei baracchini, adesso non mi ricordo che modello mi ha detto, che cosa era, però ecco, nuovo, mi ha detto, cioè, 400 in AM, o 800 in banda laterale, una cosa del genere mi ha detto, non mi ricordo se metto 750, 800, metto nuovo, non so se metto 200 o 250 euro, però è nuovo. Mi ha detto, cioè, 200, 250 euro ci vuole poco, io l'ho comprato nuovo, 270 euro verrà mai Italy, quindi anche se quello lì è nuovo è usato, se non è un MR Italy, che è un ZG, c'è quello a capo a 250 euro. Non lo so, mi fosse lui, Luca, che cosa era? Una cosa? Si vede che sta vendendo quel tipo. Devo guardare le foto. Che c'ha anche altre cose, dai, tu che c'è un amplificatore. Ma non c'è 50 euro, c'è un ZG, non se ne va. C'è un MR Italy, se ne può anche parlare, capito? Perché io ho comprato nuovo a 270 euro. Non mi ricordo, metto un codice, però ti potrei dire fesserie, no? Un numero per dire 545, 580, adesso non mi ricordo, un numero così mi ha detto, ma non me lo ricordo. C'era il numero 550, no, se ne vale 250 euro. No, non era 550, era un altro numero, se no l'avrei, mi sarei ricordato. No, boh, non so, se è ZG, non hanno quel valore. L'RM Italy sì, io ti ripeto, ho comprato la serie 8, ho pagato 270 euro. Danni c'è la serie 5, costa sempre intorno ai 180 euro. Insomma, sono, stia parlando di RM Italy, però non stia parlando di ZG, capito? Sì, naturalmente i dettagli sono cose commerciali e economiche, non si possono paragonare a apparati, diciamo, di concezione un po' più evoluta. Io c'ho il microset lo stesso, a 200 watt, quello a 200, costa, vai a guardare quanto costa quello nuovo, va. Era un microset, costa un sacco di soldi, perché sono una roba professionale. A Microsoft fa apparecchi professionali di punti radio e cose del genere, non è mondetta, ZG è roba commerciale, neanche vicino, cioè stiamo parlando di due cose completamente diverse. ZG sono tutti tirati, transistor, le valvole, eccetera, alimentatori economici. Microsoft stiamo parlando già di cose per uso prolungato, apparecchi. Molte radio private avevano i Microsoft di amplificatori. Io ho il Microsoft. Io ho un micro 70, l'LA 200, capito? È grande quanto l'alimentatore, quanto il DS50, per farti capire, così grande. Bellissimo, molto bello, nero, è dentro l'armadio lo stesso, io ho di disegnare, però non li uso, capito? Non li uso, non mi interessa, perché ho quelli valvolari anche, ne ho due valvolari anche, quindi. Perciò se lui sta vendendo questo lineare 250 euro, bisogna fare che marca è, poi se ne può parlare. Avanti già. Un attimo al telefono, Claudio. Mi sposto un attimino, Claudio, che sto facendo le foto. Io. Guarda lui a vedere se c'è delle foto, che lineare è quello che sta vendendo. Non ce li ho più perché poi, sa, mi ero rotto le esibirei, a chi capito, quando ero stato a Giugendi, un cavolo di radio, alla fine mi ha rompito il cazzo e l'ha giambato e avevo cancellato la chat, capito? Che ci sono i messaggi di ieri, avanti ieri. Vabbè, comunque già gli ho mandato il messaggio di mandarmi la foto. Vediamo un po'. Perché mi aveva rotto, capito? Se tu mi dici a me, lui, guarda se mi vendi questo, e poi ti trovo l'acquirente, e poi mi dice, ma sono in parola con quello, passa una settimana, ma sono in parola ancora con quello, allora non mi vedi a me, di venditi la roba, quando tu c'è poi l'acquirente, da voi c'è rompendo le yo-yo. No, ma se mi l'hai mandato, mi arrangio io, quando ho venduto ti avviso, se poi dica che ti dica, arrangiati. E guarda, se ti manda il messaggio, diciamo, voglio così, non per curiosità, poi c'è anche interessante, ma 250 euro e poi lo dobbiamo lineare a seconda mano. Vediamo, come saprei che lineare è. No, non mi ricordo se era 200 o 250, perché mi ha detto veloce. Anche a 200 non sono una macciolina, infatti io l'ho comprato nuovo. L'803, capito? Quello era Metalli. L'ho comprato nuovo a 270 euro spedito. quanti watt è? Come? Quanti watt è? Già pompa. Sono 400 watt in AM, è più del doppio in SSB. Pilotato con l'HF però, HF è 15 watt di pilotaggio, che poi ne ha 20 d'ingresso, quindi. Ok, no, questo mette a 400 watt, mi sembra, o 750 o 800 in banda laterale, mi ha detto. Pure, vabbè, se non è HF da attaccare i baracchini, io sto cercando un lineare da attaccare ai baracchini, non l'HF, l'HF ne ha più 4, ne ho 4, capito? Ne ho 4, siccome devo lavorare il B300, come l'ha chiesto noi, lo devo lavorare, però c'ho il B300 io, capito? L'unico che posso usare con i baracchini. Allora ne sto cercando uno simile a quello, anche più grande, più piccolo no, da attaccare ai baracchini. Quello che è già ce l'ho. Vai tu. Sì, c'era il 2001, che comunque dicevano che andava bene come lineare. Che cosa il? Il primo 2001. Ma è a valvole, bro. Vabbè, ma tu vuoi un base a transistor? No, c'è la transistor, vuoi a valvole, ne ho due, sono spenti, a valvole. Più, ma non c'è la corrente che consumano un po' di corrente, per quello io ho preso, avevo dato il FL2100 a un amico e poi l'ho ripreso perché non lo usavo, era dentro l'armadio, e io con quel soldo mi avevo comprato già l'RM Italy, capito? La serie 8 però, perché mi aveva fatto provare quella persona che tu conosci, quello suo, che va sia a 12 che a 24, io l'ho provato a 24, è spettacolare, è una bottezza. E quindi mi sono comprato il modello uguale a quello lì, appena appena inferiore, e va benissimo, capito? Alla grande, però è HF030, non posso attaccare. Oh, claro. Oh. Ma questo mi sembra che funziona a 220, non è a coso, a 12 volt. Ma cosa? La tua radio 940, certo che è a 220. No, il lineare che mi stava dicendo dovrebbe essere a 220, non a 12 volt. No, non vogliono di lineare a 220, ne ho due dentro l'armadio, nuovi. Anche prima del 922 c'è un TL911 dentro l'armadio, nuovo. Che da un kilowatt no, consuma troppa corrente, Roberto. Transistorizzato lo voglio per i baracchini, però ehi, è transistorizzato? Ah, allora è quello, come si chiama lui? 700 il 507 fece, e mi pare un nome così ci aveva, adesso non me lo ricordo. Dai, quasi parla, dai. Anni alla fine sopra modulare si vende un casino. Fatelo tutti, vai, qua si balla, ciao! Cazzo, grazie, chi c'è? Antonio, boh! Cazzo, chi c'è? Se può lineare attaccato. E già Antonio, a buio, mi chiccio io, sparisce. Cos'hai detto, Roberto? Ho detto che il lineare, non so la marca, non me lo ricordo, però, per come ho capito io, è a transistor, non è... è a transistor a 220, non è a 12 volt. Sì, dovrebbe essere quel BV507, capito? Quel BV507 dovrebbe essere. Vero, Lu, quello che è a 220 però è transistorizzato, non è quello lì, 507. Lu, Luca. E quello già, è Claudio, quello che c'aveva maestrale, che me l'aveva dato a me, che io non l'ho mai usato, quello Jumbo, che era una bestia di amplificatore, poi era una valvole. Che fine ha fatto? Non lo so che fine ha fatto. Insomma, già un baristocrat. Mi sembra che quello era 600 watt in AM 1200, ma da canale, ma pesava 20 kg, era manno enorme, tipo il coso, il 101 digital come dimensione, era una bestia. No, già 1200 in banda laterale, fate da bravi. Guarda, quel lineare io l'ho avuto, dava intorno ai 450-500 in AM, e intorno ai 700-850 in SSB. Scusa, non valvo per raddoppiare la potenza, Robè, già lo sai, non ti vuoi segnare niente. Guarda, il mio, il FL2100, che è un amplificatore HF, ha due tubi, l'872Z, ok, che sono due valvole quante un bicchiere, e non sono piccoline, erogavano intorno ai 800 watt, CD, ma con due tubi però, grossi. E devi staccare tutto a casa, se no non ti basta la corrente. No, infatti poi io lo stavo usando in HF quando avevo il direttivo. Gli blocco in basinata di Uzi, gli ho detto, boh, ma io staccano il tutto, d'ora. Transistorizzato, mi sono comprato quello transistorizzato, ma questo a settembre, avevamo il lockdown, boh. Era appena terminato il lockdown, l'avevo ordinato, una cosa del genere. Settembre, boh, un paio di mesi, c'erano due o tre mesi, ce l'avrò, niente di che. Vediamo, ma già nello showroom che fine ha fatto? Ho detto si spostava che dovevo fare delle prove. Ma Luca dov'è? Luca? Tu? Bello! A chi credi che era Giovanni Modorelli? Antonio. Ma è teso in fecca, E poi tu avevi a due maci, sempre veniva attaccato. Poi quando attacco io, allora... c'è il casino, sempre la Modorellica. Sì, Lugano! Ma chi è Luca del Monte? No, Luca Flippe. Vabbè, oh, vabbè, che adesso sono abituato ad ascoltare l'altro parlante, le voci, le modulazioni, non è ancora memorizzate. Ma c'è Antonio, c'è la mania sempre di scoccia, sempre di attaccato. Quando stiamo parlando ai vicini, allora ci buona favedà, perché sa che sovramodo a tutti, capito? Io, allora la gente si arriva, non me la fatico quando sto parlando, la gente mi parla sopra. E vabbè. No, perché l'ho già e poi io sono di quello di poche parole, cambio postazione, attacco a lineare, l'ho già fatto e non faccio nessuno qua, per le noi né nessuno. Però evitiamo sempre queste tronzate perché a me non mi piace, io non mi turbo, non voglio essere disturbato. Vabbè, Robè, aiuto, provato, l'hai provato, a me mi pare che piace un po' il gruppo, tu Danilo e accendi l'altro, se no non capisci la modulazione. No, adesso volevo vedere l'altoparlante esterno, se cambia anche la tonalità delle radio. No, la tua, quando fai quella voce da me pare Luca, che te l'ho detto anche poco fa. Vabbè. Secondo me se ci metti un MB più 5 o un Turner più 3, allora schioppetta forte. Oh, ha detto, lui ha provato un amico suo che ce l'ha un radioamatore con l'MB più 4, dice una bomba. Break. Avanti, break. Sono me. Chi è? Gianni, sono avanti. Buonasera, di nuovo. Ma che non è tanto esce, c'è un paio per rientri. Se tu hai una paranoia, non ti metti una paranoia, cosa fai? Lo provi, no? Provi, fai. Difetto, qui stavo facendo io, non potevo entrare perché stavo facendo delle prove. Sto scherzando naturalmente, dai, perché abbiamo chiamato un paio di volte, si sentiva un rumore strano, poi ho detto, già ne sei spesso. Adesso lo stai usando. Adesso sto usando l'Index. Ma la buca di la ripetizione dell'eco sta ripetendo troppo. Sì, ma l'eco si usava per la distanza, mi ricordo, la base si tratta pa farvi dare vicino un buono, si comprende nulla già. Io lo uso sempre, basta regolarlo bene si può usare. Non lascia va bene, no, stavo ripetendo troppo. Vabbè, probabilmente ho mosso la rossellina e non mi sono reso conto, va. L'ecco si usa per farti sentire meglio, per farti sentire anche quando parli con gente lontana. Però sbaglio o c'è un'alternata già? Schiaccio la portante. Sto usando questo apparecchio qua, lo sto usando con l'alimentatore esterno, come può essere l'alternata? Se l'alimentatore è quello esterno. Non parlare, schiaccio la portante. E ho voglia che c'è l'alternata, roba. Sì, adesso sono riattaccato al 44, molto diversa la modulazione, Cla. Sì, è il doppio questo. Senti a Gianni, schiaccia la portante Gianni. E si sente, sotto ce l'hai. Ma forte! Se la cifra si sente tra una modulazione e l'altra, c'è parli no? Probabilmente è la ventola che c'è attaccata che fa rumore, se voi pensate c'è l'alternante. C'è una ventola attaccata vicino dell'alimentatore. Gianni, se io ti dico che è alternato, il rumore della ventola è diverso. La distingo la ventola dall'alternata, Vabbè, si la pide a luce. Se poi non ti crede, Ocla, a l'altro avevamo detto che era qualcosa, ti dice è impossibile che sia il microfono. Neanche il telefono per me. Ma non ti grida, ma avevamo detto che è alternata e ha detto impossibile perché c'è l'alimentatore esterno. E allora non ti dimo più nulla. Sei tutti i difetti per dice ti cave di voi. Va bene, non c'è problema. Attacco l'altro, vediamo un po' se difetto c'è anche l'altro. Tutti i difettosi sono adesso. Prima non va via di nulla, ma c'è tutti i difettosi. Prima c'è da giurito, già, cosa ti ho detto io? È un periodo che non mi piace, hai un sacco di problemi lì. O sei tu che stai cambiando, facendo, non lo so. Però i difetti stanno uscendo. Se vuoi che le cose te le dicano, te le diciamo come dicono a me. Se poi non vuoi dirti niente, non ti diciamo niente, a me non mi interessa. Io basta che sento la radio, ti sento, poi. Non mi interessa se c'è alternata o non c'è alternata. Io ti dico per te, poi. Anzi, ti ho detto tutto, io ho confermato. Oh, scusate un attimo. Mi compaggio tutti i nomi. E infatti, secondo me ti conviene. Io, secondo me, lo compaggio, se ho vinto. Se quando non funzionano, i miei sono lì. Grazie a Dio funzionano tutti, però... di queste radio sai per certo che io non le compro più a seconda mano, non manco balle. Dimmi Roberto. No, devo uscire io adesso, ormai ci sentiamo dopo, devo andare a prendere mia figlia. Dai, continuate, se ci siete ci sentiamo dopo. Ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Luca e tutti gli eventuali ascoltoni. Ciao ciao, io vado. Ciao ciao ciao. Ma intendi Luca, ma spinge il 44? Sì, tutta un'altra storia. Allora, la differenza è che io lottavo e non mi piaceva, perché giocavo un'altra radio e sto giocando qua. Sì, però è sempre che, ma non sta spingendo come l'altra, cazzo, poi come girava le balle. Allora ne attaccavo, attaccavo da Raghida, poi riprovavo e ti lascia vedere con questo. Parlavo con un altro, ma con l'altra radio stai usando qua. Talmente era, perché se io uso, per esempio, adesso sto usando 140, no? Lo sono fatta per me, spinge quanto il 430. Non è vero, se io attacco il 430 spinge di più. Quindi te ne accorgi, ma l'amplificazione è sollevato. No, no, sto usando l'altra radio, però è lì il limite. Ma da dire, la radio è diversa, cazzo, a me mi si girano le balle. Sì, perché comunque come timbrica è quella, che una è più forte e l'altra è meno forte, ma la timbrica è quella comunque. Tra queste radio qua, sì, 80, 140, 430, 440. Però vedi, se attacchi 940 è diverso, è quella che io notavo come rottura di base. Aspetta che attacco l'altra, vediamo un pochettino se va meglio. No, poi se non me lo faccio, ti ripeto, c'è questo rumore sotto, ma quando parli lo copri. Ma è forte il rumore, aspetta, mi ascolto io, dai, voglio vedere se è forte o no, se è forte lo tolgo. Schiacciati la portante senza parlare, e poi parla e guarda se lo copri. Per carità, anche io sono andato russo, ho cioccoli. Benissimo, la modulazione non è molto forte, c'ho il braccio lo stesso che va bene, il Midland è una cannonata, l'Inuit lo stesso, il Dacchi lo stesso, però sono radio, sono passate, eccetera, in alternativa già, piaccio questo, non è un problema. Sì, infatti, ti piace il collezionismo, dai. No, a me no, come ben vedi, qua c'ho solo questo. Là sull'S9 dentro armadi, sì che non mi piace il collezionismo, quando mi dicono che va bene una, io tratto di se boh. No, ma io adesso non ne ho niente, ne ho solo 7, sì, 7 compreso un DAC. 7, ma prima ne avevo una ventina, guarda che ne ho dato almeno un 7, 8, quasi, o forse 10 a Gianni Capri. Molto belle. Altre 5 o 6 le ho date a Cosio, a Roberto. Roberto, ho pagato 101 bici perché è uno spettacolo, me lo so, marca una linea di Kraft, la linea Drake, ne avevo un sacco, c'erano tre basi piene, e poi le ho fatte tutte fuori perché cacco, non si poteva più entrare, ma non è, nel senso non c'era più posto, non riuscivo più a muovere, poi la polvere che c'era, ogni volta dovevo smontare tutto, pulire tutte le basi, rimetterle tutte in ordine. Ah, che nandi, adesso ho fatto un capolavoro. Due basi separate, due cose completamente diverse, senza mischiare la lama con la secca. Infatti. E allora, a chi piace qua? Che spaghetto è? È muscolo, ma con che si è andato? Sì, che io sono uscito stamattina, sono rientrato, ho pranzato, ho venuto questo abbiocco che sono sdraiato nel divano, ho dormito, grazie. sentito il telefono, perché lo metto a vibrare, non è che ero vicino, nel vetro, no, nel tavolino che c'è il vetro, che faceva no, mai scendato. Ma mai due cari da Roberto trovarono le 40, la mazza di Nevada. Che cosa? Che mi ha svegliato Roberto a provare la radio, se no ero dormito.